parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Ma perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti struzzo l'Autan, Ma vogliamo dire qualcosa, caro Parenzo, con tutti i casini che ci sono? Lo so, tu dici, parli di Berlusconi, no? Con tutti i casini che ci sono. Intanto, buonasera da Perugia, intanto. Sì, va bene, buonasera da Perugia. Sai quanto mi piacciono i buonasera, i saluti, eccetera, no, ma tu insisti. Ma dire agli amici che dalle 7:15 sarò a sfidare il pubblico. No TAF, no Global. Sono qui, Hotel Brufani, venite a salutarmi. Beh, l'Hotel Brufani non mi sembra però, a Perugia, non mi sembra una sede no global, è un hotel di grandissimo lusso dove andrò anch'io peraltro, per cui ecco, non posso appunto dire nulla, andrò no, anch'io. Ecco appunto, come è questo devi dire? Appunto. No, andrò anch'io con grande e felicità. Non si capisce, infatti io di questo poi volevo parlare, non si capisce perché tu ci puoi venire e nessuno dei followers te lo fa notare. E a me rompono tutte le balle. Sì, ti rompono le balle perché tu fai un po' il pauperista, diciamo. No, sei quello che vuole. Concordo, però difendo i diritti dei più deboli, ma non si capisce perché. Sì, però capito, stride un po'. Tu vai al Brufani, dove è un hotel a 5 stelle, dove peraltro non paghi come non pago io. Non ho capito, un momento. Tu, reazionario Cruciani, puoi andare al 5 stelle. Beh, certo, non c'è nessuna contraddizione. Capanna, non posso andare al 5 stelle. Eh beh, no, se ci va a Capanna al Brufani, la gente si incazza. Perché negli anni 60 le persone come te venivano inseguite e malmenate per strada. Allora, stavo dicendo prima che come al solito tu mi interrompessi, cioè che voglio all'inizio di oggi parlare di Berlusconi, della puntata di oggi parlare di Berlusconi, perché? Ma ti pare possibile, caro Parenzo, che con tutti i casini che ci sono in Forza Italia e le candidature, il casino della Puglia, le divisioni, i sondaggi che danno Forza Italia sotto il 10%, eccetera, la preoccupazione del signor Berlusconi è fare una precisazione a mezzo di comunicato stampa, perché vuole fare sapere all'intero mondo, vuole fare sapere a tutta Italia che lui in realtà ama gli animali e che i giornalisti cattivoni mettono in dubbio che lui, no, che lui non tratti magari bene in casa Dudù, Dudina o un altro cane che può girare da quelle parti. Cioè ha vergato di suo pugno un comunicato in cui dice sono destituite di fondamento le illazioni giornalistiche in cui si dice eccetera eccetera. Ragazzi, dai, su, ma è veramente siamo non, all'ammazza caffè, siamo, come si dice in gergo, no? Siamo veramente all'ultimo stadio, sotto il 10% e fa il comunicato su Dudù. Dai, su. Comunque, Toti, che è candidato in Liguria, dice, ci rassicura tutta Italia, Berlusconi vuole bene a Dudù. Berlusconi ha dovuto scrivere una lettera per dire che vuole bene a Dudù. Beh, ma vuole molto bene a Dudù. E anche Dudù vuole molto bene al presidente Berlusconi, francamente non ci trovo nulla di strano. Siamo tutti sollevati, siamo tutti rinfrancati, sollevati, abbiamo deciso, lo ha detto anche Toti oltre che Berlusconi, dunque una doppia conferma, Berlusconi vuole bene a Dudù e anche a Dudina. Tutto a posto, dunque gli animalisti che avevano cominciato subito a incazzarsi, no? Subito a mobilitarsi, oddio c'è pericolo per Dudù, Berlusconi tratta male Dudù, possono essere rassicurati. Passiamo alle cose leggermente più serie, la sospensione del poliziotto Fabio Tortosa, che è stato sospeso dal servizio. Io ovviamente sono fortemente contrario a questo provvedimento, non gliene frega un cazzo a nessuno, forse sì, ma comunque io penso che sia una roba ridicola, dovrebbero sospendere non so quanti poliziotti in giro per l'Italia, secondo me, non so quanti poliziotti partecipi che hanno partecipato, che hanno fatto qualcosa nella vicenda del G8 di Genova, andrebbero sospesi tutti, poi vedremo le motivazioni del provvedimento eccetera eccetera. il capo della polizia. Tortosa stamattina verrà sospeso dal servizio. Se c'è qualcuno che sbaglia, sbaglia lui, non è un problema. Quello che sbaglia verrà sanzionato, ma non è la polizia. E sentiamo dalla viva voce del signor Giuliani, il padre di Carlo Giuliani, dalla sua viva voce, che lo Stato deve chiedere scusa. Mattarella deve chiedere scusa a Giuliani in nome dello Stato per quello che ha detto il poliziotto. Il massimo rappresentante dello Stato dovrebbe intervenire. In qualunque forma, dice lei? In qualunque forma. Io spero che lui possa, abbia, trovi, come dire, anche il coraggio in questi casi, per carità. Capisco che non è mica una cosa facile, ma che trovi il coraggio di dire che lo Stato chiede scusa, di dirlo pubblicamente. Sentiamo questo mitologico scontro tra Daniela Santanchè e Andrea Scanzi ieri sera 8:30, I poliziotti, l'autobus caduto sui due neuroni. Vabbè, la realtà è che è un format ormai, c'è Andrea Scanzi, giornalista del Fatto, eccetera eccetera, contro una un esponente del centrodestra o un esponente renziana. Cioè, Scanzi contro Biancofiore, Scanzi contro Santanchè, Scanzi contro, come si chiama, Moretti, Scanzi contro Bonafè, Scanzi contro... Cioè, sei sicuro che esce fuori qualcosa? Perché tanto per lui sono tutte imbecilli. Io tra l'altro concordo in parte, no? Non su tutte, ma insomma su qualcuna sì. I poliziotti, i carabinieri non vanno in giro a sparare alla Santanchè, gente per lei bene. Passa troppo tempo a I Twitter a chiedere quando cadono gli autobus. Glielo dico io, l'autobus le è caduto sul cervello e quei due neuroni gliel'hanno sbagliato. Glielo dico io. Sogno e poi l'hanno trombata. Però io non sto facendo teatro, sto partecipando alla vita reale. Ma quando mai l'avrei saresti? Ma non mi interessa. Io mi vergogno, non so di quello che parlo, della sua brillante carriera da direttore artistico teatrale. Direttore artistico. Ma chi? Io ma chi? Scusi, ma non mi interessa, non mi interessa. Ma sembra di sì. Ognuno ma vada sul contenuto, Santanchè, su, dai. Sui contenuti. Dica qualcosa di intelligente, stupisca il mondo. Io mi vergogno da italiana, da madre, che ci sia un'aula intitolata Giuliani, perché per me, per mio figlio e per tutti i giovani non può essere né un esempio né un errore. E in tanti si vergognano, io compreso, ad avere in Parlamento una come lei, onorevole Santanchè. E pazienza, quando lei si presenti e poi si fa eleggere, lei poi vuole le preferenze, sarebbe uno di quelli indagati, come sono i 19 consigli regionali. Indagato per cosa? Grazie a una legge elettorale. Indagato per cosa, onorevole Santanchè? No, dico, lei che porta avanti le preferenze, lei che è molto istruito e studia molto, senza dubbio, sa che oggi 19 consigli regionali sono stati indagati. Ma non erano tutti buoni i migranti che arrivavano in Italia sui barconi? Non erano tutti disperati, eccetera, eccetera? Oggi ne hanno fermati 15 a Palermo, credo, in Sicilia, 15 musulmani o presunti tali, che avrebbero gettato in mare 12 cristiani nel canale di Sicilia. Dico solo questo, non aggiungo altro, non aggiungo cosa altro. Cosa vuol dire questo? No, ma non erano tutti, come dire, disperati, brava gente, in fuga dalla guerra. Ma sì, sicuro, ma intanto dovete capire che le condizioni disperate nelle quali... No, ma per dire, hanno buttato 12 in mare. Che le condizioni estreme... Cioè uno, se è disperato, hanno... al tempo di litigare per la religione, secondo te? No, ma scusami, non lo so, è un uno disperato barbaro, non è che dice... Tu sei musulmano, tu sei cristiano. Ma è evidente che è un gesto barbaro, ma le condizioni estreme in cui questi si sono trovati a far quel viaggio comporta che hanno dei comportamenti bestiali. L'umanità è bestiale alle volte. L'umanità è bestiale. La tua conclusione è che l'umanità è bestiale, ma ti voglio fare sentire la Boldrini che canta Bella Ciao con i partigiani. La Boldrini, la Boldrini che ospita in Parlamento i partigiani e canta Bella Ciao con bella loro. Ciao andrebbe insegnata nelle scuole. Nelle scuole. Ma ci manca. Ma qualcuno l'ha insegnato a lungo, per fortuna. A fianco all'inno italiano. Senti. Ciao, prima in aula, hanno cantato. Portami via, se mi sento di morire. Fabio Tortoni. Rosa è il poliziotto, come sapete, è stato ospite alla Zanzara praticamente in esclusiva un paio di giorni fa, dove ci ha raccontato tutta la sua storia, la sua versione. Io proverei a richiamarlo, David, perché voglio sentire la sua reazione alla sospensione dal servizio. Facciamo il numero. Non risponde. Sì, sì che risponde. Pronto? Fabio? Sì. Sono Cruciani, ciao. Ah, come stai? Tu? Una merda, però vabbè, dai. Come hai preso la sospensione decisa dal ministro degli interni, dal capo della polizia? Penso che sia un atto che sia propedeutico all'apertura, è un atto che è propedeutico all'apertura di un procedimento disciplinare per cui è stata applicata questa formula che non è tanto usuale, ma capisco e condivido. Ma è giusto secondo te? È giusta la sospensione? Non è giusta nell'interezza della vicenda, è assolutamente sovradimensionato il tutto, ma probabilmente sovradimensionata è stata l'esposizione mediatica alla quale sono stato sottoposto. Non ho capito se consideri giusta la sospensione, però. La considero giusta rispetto a tutto quello che è successo, non la considero giusta nel merito. Dunque la contesterai, diciamo, attraverso i tuoi... La contesterò perché bisogna fare un ricorso al TAR e io questi soldi da spendere non ce li ho e non ce li avrò. Fabio, buonasera, sono Parenzo. Gliel'hanno già notificata questa sospensione o no? Sì. Te l'hanno notificata, però all'inizio l'hai appresa dai media, cioè dalla stampa, dalla televisione? Sì, l'ho appresa dalla televisione. Ma è che è strano o no? Non lo chiedete a me. Per quanto è in vigore questa sospensione? È in vigore fino alla chiusura del procedimento disciplinare. Per cui può durare anche 6 mesi? Fino a sei mesi. Fino al massimo 6 mesi, ma anche meno potrebbe durare. Sì, potrebbe durare se il procedimento disciplinare si chiude prima, sì. Ma tu in questo periodo prenderai lo stipendio? Metà dello stipendio. E io non so proprio come poter andare avanti. Cioè, avrai difficoltà? Tua moglie non lavora? Sì, mia moglie lavora, ma assolutamente non è sufficiente a portare avanti le spese che abbiamo. Scusami, Fabio, mi puoi dire quanto guadagni tu netto? Intorno ai 1.400 euro. Per cui prenderai 700 euro al mese da qui a quando finirà questo procedimento? E nel frattempo mi è anche proibito trovare un lavoro. E tu dici non riusciremo sicuramente ad andare avanti? Devi chiedere i soldi? Con le nostre forze, spero che la mia famiglia, il resto della mia famiglia mi stia vicino. Magari qualche collega può proporre una colletta, un aiuto per questo periodo, qualche collega anche del sindacato, della polizia? Voi mi avete conosciuto e penso di aver fatto trasparire qual è la mia dignità di uomo e di poliziotto ed è una cosa che non... Non vuoi la carità, diciamo? No. Non vuoi la carità di nessuno. Però è complicato, 700 euro tu, la tua moglie quanto guadagna? Adesso non voglio fare i conti in famiglia, ma... Guadagna molto meno di me. Per cui e due bambini hai? Sì, due. Come l'ha presa tua moglie questa vicenda? Come ha pianto? Ha pianto? Si è disperata? No, ancora no, perché non ce lo possiamo permettere, perché abbiamo due bambine alle quali dobbiamo regalare i sorrisi anche se non sappiamo dove andarle a scovare. Secondo te, adesso oggettivamente capisco che è una cosa difficile da dire, ma il capo della polizia in questo caso si è comportato così, cioè ha agito subito per il clamore mediatico o per la sostanza delle cose? Tutto quello che sta succedendo è solo clamore mediatico e non sostanza, perché parte da un qualcosa che è sostanzialmente differente da quello che è stato, cioè anche la mia dichiarazione in sostanza non era quella. Dunque ti senti un po' una vittima sacrificale? Sì, ci sono stati indagati per il G8 di Genova, sì, che non sono stati sospesi dal servizio, e io per aver espresso un'opinione che sì, stupidamente prestava il fianco a interpretazioni distorte per colpa mia, sì, perché dovevo utilizzare altre parole, vengo sospeso dal servizio, quando chi si è reso responsabile di determinate cose non lo fu in attesa del procedimento. Ma ti sento abbattuto, però non è nel tuo come dire, nella tua... Tu sei un allenatore, hai giocato a football americano, hai... Datemi il tempo di riorganizzarmi e alzerò di nuovo la corazza che mi contraddistingue, e se ci dovrà essere una battaglia la farò, però adesso datemi il tempo di metabolizzare il tutto e ritornerò a combattere. Dovremmo dargli una mano noi con l'avvocato, secondo me. Ma adesso avrà il suo avvocato. Ancora non è il momento degli avvocati, anche perché fatti di rilevanza penale non mi sono contestati. No, per il ricorso al TAR hai detto sulla sospensione, sulla sospensione. No, ma non è neanche mia intenzione farlo, perché io non voglio una sospensiva di questa sospensione. Mm. Io voglio arrivare al procedimento disciplinare il più presto possibile. Mm. Perché voglio tornare davanti a qualcuno a confermare le mie ragioni e voglio tornare ad essere un servitore dello Stato. Se questo mi sarà permesso, bene. Se questo non mi fosse più permesso, sicuramente non garantisco neanche più la mia presenza in questa nazione. Cioè in che senso? Cioè se mi mandano fuori dalla polizia vai all'estero? Sì. Cioè vai via dall'Italia? Beh, ovvio, perché non vivrei mai in un paese dove c'è il reato d'opinione. Sì. E soprattutto se questa opinione è distorta. Sì, no, ho capito perfettamente. E l'ultima cosa è su quello che è stato un tuo superiore, credo, hai fatto da autista a lui anche, che è stato rimosso dal suo incarico, si chiama Adornato, è un dirigente della polizia a Cagliari. Grottesco. Perché grottesco? Per avere fatto un like, per questo è grottesco. Antonio Adornato era fino al 9 aprile sì. Il frontman del dipartimento per quanto riguarda i reparti mobili. Sì. Un uomo che ha speso una vita all'interno dei reparti mobili, probabilmente in questo momento il più grande conoscitore della realtà dei reparti mobili. Sì, un esempio, un modello da seguire, tu dici. Un modello, assolutamente un modello al quale va il mio abbraccio e la mia angoscia per sentirmi causa sì. di questa sua cosa. Ah. E lo abbraccio forte a lui e alla sua famiglia. Sì. Un like mette in discussione la carriera di un poliziotto, di un poliziotto così. Senti, Alfano, vuoi dire qualcosa o no? Alfano, voglio dire, vada al reparto mobile di Roma, parli con i miei colleghi, ci si metta seduto a mensa insieme, sì. ci scambi quattro chiacchiere, non affrontando per niente l'argomento Tortosa, parli con loro, hanno bisogno. Se me l'avessero chiesto l'8 aprile, quando fortunatamente ero un signor nessuno, sì. avrei auspicato una presenza così forte delle istituzioni in mezzo agli uomini. In mezzo agli uomini. In mezzo agli uomini. Fabio, in che cosa hai sbagliato? Una cosa che hai sbagliato in questa vicenda? Al di là Ho sbagliato ad esprimere un concetto con delle parole che potevano essere fraintendibili. Oggi probabilmente, volendo lanciare lo stesso tipo di messaggio, utilizzerei parole diverse. Ciao, a presto. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Allora ragazzi, è vero che una persona dovrebbe stare attenta a come si esprime su Facebook, soprattutto quando sei un servitore dello Stato, ma io ripeto, non conosciamo ancora le motivazioni, non sappiamo ancora come andrà a finire. Se sospendono uno come la persona che avete ascoltato, Fabio Tortosa, se lo sospendono dovrebbero sospendere la metà dei poliziotti italiani. O la metà dei poliziotti italiani che hanno partecipato alle vicende della Diaz. Ci sono state persone, l'ha ricordato anche lui, indagate, gente che ha fatto carriera nonostante il coinvolgimento in tutte le vicende. De Gennaro, che era capo della polizia, dunque ha una responsabilità per quello che è successo, una responsabilità, diciamo, anche se è stato assolto, diciamo, di tipo politico, di gestione. No, ma è chiaro. Poi alla fine se la prendono con l'ultimo degli arrivati, questa è la realtà. Se la prendono con quello più basso in grado, semplicemente perché esprimono le sue opinioni in maniera forte, sicuramente, su Facebook. Allora, lui sospeso, può darsi magari nel futuro anche cacciato dalla polizia. Gli altri, carriere, eccetera. È una vergogna, dai. Allora, Parenzo, credo che oggi abbiamo stabilito un nuovo record. Cioè, da quando abbiamo finito alle 18.54 e 30 circa, 55... Sì. Alle 19.19 credo abbiamo stabilito un nuovo record di, diciamo, di assenza dall'onda, diciamo, di vuoto della Zanzara, che si aggira intorno ai 24 minuti. Le grandi polemiche di Cruciani. 24 fottuti maledetti minuti. 24. E chiamiamo i sindacati. Chiamiamo Landini. Chiamiamo Landini. Landini. 24. No. Mi ha colpito molto una notizia proveniente dall'Olanda, dove una gentile signora, che Dio l'abbia in gloria, che di giorno faceva la funzionaria di banca presso la banca centrale olandese e di notte la dominatrice a pagamento, è stata cacciata dalla banca in questione e rischia anche di essere accusata di evasione fiscale. Sostanzialmente cosa faceva? Faceva la mignotta. Cioè, di giorno era una apprezzata funzionaria di banca, di notte si faceva gli affari suoi. Adesso lasciamo perdere l'evasione fiscale, un altro discorso. Eh beh, no, quello rientra tra le d'altra parte. Quello vedremo, decideranno i tribunali, no? Il fisco olandese. Ma insomma, di notte si travestiva da prostituta sadomaso, amava indossare uniformi dell'SS, vabbè, insomma, si prostituiva. E allora qual è il problema? Giustamente mi facevano notare dalla redazione, se avesse fatto di notte la cameriera, no? Se di notte avesse fatto la cameriera in un locale, magari non l'avrebbero licenziata da funzionare di banca, non l'avrebbero licenziata dalla banca centrale olandese. In Egitto, questo è incredibile. Ora consiglio al mio amico barra amica Vladimir Luxuria di recarsi in Egitto quanto prima. Cioè, è facile andare a rompere i coglioni a Putin, a Sochi durante le Olimpiadi, insomma. Beh, è abbastanza facile, dai. Insomma, facile, sì, appunto, l'hanno alla fine, presa alla fine, e portata, sì, nelle questure russe, l'hanno portata in uno camerino là dentro, seppure divertita, dai, con i poliziotti russi. Ma che dici? Ma figuriamoci, si è divertita come una matta. Ma no, sei divertita. Un figlio di Putin anche tu ormai. No, ma divertita nel senso, si è divertita mica in senso sessuale. Si è divertita lei per questa vicenda, grande, è andata lì per Iene con la copertura. Vada da sola la mia amica Vladimir Luxuria, se ha il coraggio, e sicuramente avrà il coraggio di farlo, prenda baracca e burattini e prenoti il primo volo per il Cairo. Per il Cairo, dove adesso è vietato, come dire, il soggiorno ai gay stranieri, e la polizia può tranquillamente cacciarli dal paese. L'obiettivo è quello di tutelare l'interesse pubblico, i valori religiosi e sociali, e prevenire la diffusione del vizio e dell'immoralità nella società. Vorrei mandare a fare in culo i giudici egiziani che hanno deciso questa cosa. Ecco, bravo. E invitare la signora Luxuria, l'amica Luxuria, a prendere il primo aereo, a presentarsi con inghirlandata, no, al Cairo, e girare per la pubblica piazza e farsi arrestare al Cairo. Allora sì che sarebbe una grande azione di libertà. Una grandissima azione di libertà, senza televisioni, senza niente. Ti consiglio di non andare in Egitto nelle prossime settimane, anche tu, se gli amici egiziani ci ascoltano. I gay stranieri. No, i gay stranieri è giusto cacciarli dal paese in Egitto. Ma per carità di Dio, nessuno fa niente, poi qualcuno propone invece il boicottaggio per Putin. Con l'Egitto niente? Dai, su. No, ma questo sono d'accordo con te, figurati. And now the headlines. News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. "15 migranti musulmani fermati dalla polizia per aver gettato in mare 12 persone di religione cristiana dopo una rissa scoppiata nel corso della traversata. Sospeso Fabio Tortosa, l'agente che su Facebook ha scritto "rifarei la Diaz", a Cagliari rimosso, il capo del reparto mobile aveva messo "mi piace" sul post. Sulla legge elettorale ora andiamo in aula, dice la Boschi dopo il voto di ieri, nella direzione PD, Bersani, nessuna ritirata, Guerini, no rottura insanabile. Berlusconi conferma la candidatura dell'ex ministro Poli Bortone in Puglia, Fitto chi vuole la rottura ne pagherà le conseguenze, resta il nodo Toscana. Piano d'Italia alla Whirlpool Indesit, chiusura di alcuni stabilimenti tra cui quello di Caserta, a casa 1340 operai, bloccata una strada provinciale. Ultime tracce a Valencia in Spagna di Enzo Costanza, in fuga col figlio neonato di 15 giorni, l'uomo ha usato la carta di credito, soffre di problemi psichici. Bene, andiamo in provincia di Ancona. Fabrizio, vai. Fabrizio, buonasera. Dai, buonasera, sì, forza, parli più forte, se no non sentiamo una mazza. Forza. Allora, sta imperversando il politicamente corretto in Italia. La cioè? Paluzzi è stata sospesa perché su Twitter ha espresso un proprio parere su Alonso. Il poliziotto e l'altro poliziotto di Cagliari sospesi sì. per loro opinioni su Twitter e cose simili. Sì. Scioni all'Olimpico e tifosi. No, Fabrizio, però lei è in viva voce, ha la radio accesa, ha tutto quello che non si deve fare. Sento un rimbombo. Avanti, forza. E quindi mi chiedo, in Italia c'è ancora la libertà di espressione? Beh, ma questo non c'è, sono tre casi molto diversi. Twitter, il tweet della Saluzzi, abbiamo già detto in abbondanza. Oggi giustamente Vittorio Fetti scrive che è una vergogna. Io mi associo assolutamente a lui, ma abbiamo già dato su questo, abbiamo già detto che purtroppo Sky ha dato ragione ad Alonso. Magari temendo qualche danno dal punto di vista del contratto con la Formula 1, eccetera, dà ragione ad Alonso, che è l'unico colpevole in questa vicenda. L'unico colpevole, perché cosa c'entra le interviste negate a Sky con un tweet privato della signora Saluzzi? Non c'entra assolutamente nulla. E gli altri casi, vabbè, il poliziotto abbiamo detto. E l'altra cosa che hai detto qual è? Dello striscione. Ma lo striscione che c'entra? Lo striscione, no, è una cosa ignobile nei confronti di una donna, della madre di uno morto, e ha fatto bene il presidente della Roma a rivolgersi. Ma che c'entra? Gli striscioni andrebbero proibiti dagli stadi, cancellati gli striscioni, non bisogna più portare nemmeno mezzo striscione allo stadio. Questo è l'unico provvedimento possibile, e infatti qualcuno ci sta pensando, eh? Cioè, ho letto oggi che qualcuno ci sta pensando. Giordano Salerno, vai. Dimmi. Niente, volevo il fatto del poliziotto che è stato sospeso. Sì. Dai, sinceramente, dai, chi ha ordinato di riuscire è stato commosso. È una persona che ha eseguito gli ordini e con suo parere sì. viene sospeso. Sì, ma in realtà allora non è che è stato sospeso perché ha fatto il suo dovere, è stato sospeso perché ha detto delle cose inopportune su Facebook. E per me è sbagliata comunque la sospensione. Per Parenzo probabilmente no. Però no, l'ho detto, non è sbagliata la sospensione. Mi dispiace umanamente, abbiamo sentito anche prima la testimonianza, però non è sbagliata. È un uomo che porta la divisa. Io non devo avere paura di lui. E dopo ma quello perché che dovresti avere paura? Ma non è quello, scusa, il punto. Ragioniamo un momento, come direbbe Capanna. Un poliziotto può dire delle cose su Facebook, sì o no? No, perché non mi risulta. È un funzionario dello Stato. Vabbè. Indossa una divisa. No, vabbè, un cazzo, indossa la divisa. No, ma come si fa a non capire la differenza tra Cruciani e un poliziotto che poi va in piazza? Che c'entra? Il paragone non è con me. L'ordine pubblico. Il paragone non è certo, con perché tu dici, ma che cosa c'entra? Ha scritto solo su Facebook. È un funzionario dello Stato. Se un magistrato che deve pieno di magistrati, il PM, infatti, Zucca, infatti, il PM Zucca, ma Zucca, che è stato il PM, la Zucca, conosco che, soltanto la Zucca, no, il PM io, Zucca che è, Zucca, è stato il PM del processo alla Diaz, uno dei PM del processo alla Diaz. Sono giorni che continua a dire che nella polizia c'è il fascismo, che nella polizia è tutto, cioè, parla tranquillamente. I magistrati possono parlare e i poliziotti non è vero, no, ma non è vero, ma infatti ma anche questo lui è anche un sindacalista, i magistrati anche un via sindacalista. Da Twitter, via da Facebook, i magistrati, chi ha ruoli nello Stato non è tenuto a scrivere. Più grave i magistrati, che pare, perché il magistrato è molto più grave del poliziotto. Andrea dubbio, da Roma, vai Andrea. Oh, ciao a tutti, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Guarda, io veramente stavo in macchina e mi sono fermato perché quando ho sentito che questo poliziotto, presunto poliziotto, ha detto delle cose del genere, io sono rabbrividito. Cioè, allora, facciamo un'analisi sul soggetto. Una persona che dopo 14 anni, 14, non ha ancora capito quello che cosa è successo. Gliel'ha ricordato poco fa, pochi giorni fa, la Corte di Europea. Dopo una cosa del genere, una persona che ha pure una famiglia dice delle cose del genere, per me dovrebbe rifare l'esame psicoattitudinale per stare in polizia. Cioè, dunque, tu sei d'accordo con quello che ha detto l'attore là, Santa Maria, quello che ha impersonato uno degli agenti? Ha detto che è uno psicopatico, cioè no, psicopatico, ha detto no, che uno psicopatico, ha detto che uno che bisogna indagare nel suo cervello, adesso non mi ricordo l'espressione esatta. Allora, bisogna, partendo dal presupposto che bisogna indagare sui cervelli di tutti, penso che in questo caso ci sarebbe anche bisogno, perché una persona che, ripeto, dopo 14 anni non ha ancora la lucidità di capire quello che è successo, per me evidentemente secondo lui sono successe delle altre cose rispetto alla verità processuale, rispetto a quello che è uscito. Cioè, c'è anche il diritto di pensare in modo diverso, c'è anche sì, il diritto, certo, di pensare, certo, per esempio, c'è anche il diritto di pensare, per esempio, che ampliando, no, l'immagine, al di là della scuola Diaz, la vicenda di Genova è una vicenda di criminalità, al di là di quello che dice pure Agnoletto, no? Di criminalità, di persone che volevano mettere a ferro e fuoco Genova, si può dire anche questo, o no? uno strumento nelle mani del demonio. Allora, oggi, caro Parenzo, sono andato a fare colazione al bar. Vabbè, chi se ne frega, tu dici, no? Beh, questa mattina fanno tanti italiani. Tanti, diciamo, italiani, cioè, sono uscito da anche casa. Anche tanti immigrati, anche tanti rom vanno al bar a fare colazione. Ma i rom non credo, i rom fanno colazione nei campi rom accendendo i fuochi. No, vanno anche al bar a mangiare brioche. Non credo, non credo proprio. Comunque vado, sono mangiare, andato mangiare. No, sono uscito da casa, sono andato a prendere mia figlia. Fin qua tutto bene. L'ho portata a scuola, poi mi sono fermato in un bar a fare colazione. Sfoglio un quotidiano che si chiama Metro, quotidiano gratuito, sì. No? Sì, era lì sul bancone del bar. Sì. E leggo questa notizia: il pediatra pedofilo dimenticato per anni. Una cosa pazzesca. Questa è l'Italia anche. Condannato nel 2006, ha esercitato fino al 2014. Cioè, questo qua è stato condannato nel 2006 per possesso di materiale pedopornografico, questo signore, no? Sì. Ma non è stato segnalato mai, ha continuato a esercitare, non è stato segnalato alle autorità preposte, ha continuato a esercitare fino al 2014 e adesso è accusato di una violenza su 11 bambini, tra cui uno di 2 anni, di 2 anni. Cioè, questo qua è stato sostanzialmente dimenticato per anni, nonostante una condanna nel 2006 per possesso di materiale pedopornografico, e avrebbe abusato di 11 bambini in 10 anni, capito? Speriamo che prendano anche le persone responsabili del fatto che questo ha continuato a esercitare tranquillamente per tutti questi anni. Cioè, questo è in carcere, pagherà, si ammazzerà, non lo so quello che farà. Cioè, uno che abusa su un bambino di 2 anni, di 11, eccetera, che deve fare nella vita? Cioè, si dovrebbe impiccare in carcere, cioè, che devi fare? Beh, impiccare in carcere, ma sì, in carcere, vediamo, carcere, per lui è meglio, per lui è meglio, credo, no? Cioè, comunque, credo... guarda, alcuni amici che sono venuti qui a Perugia e ho qua davanti al festival, mi segnalano notizie per te sul sesso, adesso non so come si chiama sto ragazzo che qua, vieni, parla a voce alta che se non ti sente. Che vuole, chi sei tu? Parla a voce alta. Eccomi, sono Nicola, volevo segnalare una notizia bellissima su Vice che dice che c'è un'associazione che aiuta i disabili a masturbarsi. Ma lei perché segnala questa notizia tra le tante, amico mio? Perché credo che per la zanzara sia fondamentale saperlo. Grazie, grazie. Ecco, questa è l'immagine, diciamo, che abbiamo, cioè, in giro. Allora, perfetto. Io voglio dire una cosa, cioè la notizia è quella, però bisogna anche darla bene. Cioè, c'è un'associazione che aiuta i disabili a fare sesso, non a masturbarsi. Cioè, a capito? Questo ragazzo assieme ad altri mi ha visto qua da solo. Ha detto, ti devo segnalare. È entrato, ha detto, devo segnalare la notizia. Che cazzo è successo? È cascato il governo? Mi dice, no. E che cosa è successo? Zagrebelski, legge elettorale, sesso e disabili. Ho una notizia per Cruciani. Allora, già lì io, è qui davanti, guarda, tremo. Si metta lì, trovi altre notizie, amico mio. Grazie. Poi sì, ci trovino altre notizie. Ci trovino altre notizie. Ma è qua. Matteo da Genova, dai, 800 24 00 24. Vai, Matteo. Ciao. Dimmi. Volevo intervenire su Tortosa. Vai. Sì, no, nulla, di non preoccuparsi che non arriva alla fine del mese, perché intanto poi Fratelli d'Italia ha un posticino in Parlamento, al prossimo giro glielo trova. E dunque? A tutti. Dunque? No, niente, di non preoccuparsi, che era preoccupatissimo di non arrivare a fine mese. Scusi, perché uno non dovrebbe essere preoccupato se per aver espresso una sua opinione, anche se discutibile, nei modi che sappiamo, eccetera, gli tagliano lo stipendio del 50%? Perché uno non dovrebbe essere preoccupato, secondo lei? Non dovrebbe essere preoccupato, perché intanto poi al prossimo giro lo candidano, sì, va in Parlamento, 12.000 euro al mese, sì, che problemi c'ha? Nessuno. Allora, la sua ironia è evidente. La sua ironia è evidente. Dunque, secondo lei questo Tortosa va cacciato dalla polizia? Il minimo. Il minimo. Cacciato dalla polizia. Per che cosa? Scusi, non è stato mai indagato, mai condannato per nulla, il suo nome non è mai stato fatto tra quelli coinvolti nelle vicende della Diaz, però va cacciato semplicemente perché scrive un post su Facebook in cui esprime le sue idee per quello che è successo e dà del bermio a Giuliani. Mi spieghi perché va cacciato, secondo lei? Intanto ti voglio segnalare, Parenzo, che una persona che conosciamo, ma non posso fare il nome, un imprenditore. Fa il nome. No, non posso fare il nome. No, perché è importante non fare il nome in questo caso. Un imprenditore che nell'ambito, diciamo, della ristorazione, diciamo così, e dell'intrattenimento, ha detto: voglio pagare, dai il mio numero di telefono a Tortosa, perché gli voglio, non c'è bisogno della candidatura, dunque Matteo, gli voglio pagare metà dello stipendio che è stata sospesa dalla polizia. Sì, ti giuro. Una persona che conosci anche tu nel campo della ricreazione, diciamo, dell'intrattenimento, eccetera, ha detto: guarda, dai il mio numero di telefono, sono pronto a pagare metà dello stipendio. Ora, ovviamente Tortosa non vorrà. Guardate che noi non stiamo facendo campagna a favore di Tortosa, lo dico anche a Matteo. Sbagliato. Matteo, non stiamo facendo una campagna a suo favore. La battuta di Matteo ci sta. Cioè, in a me dispiace per questa persona che ha perso il lavoro, che prenderà metà stipendio. Beh, vedremo, cioè, ma scusa, però la battuta, ma è una battuta, no, d'accordo. Però la battuta, la riflessione di, di Matteo, ma è nessuno fino adesso gli ha proposto una candidatura. Perché la politica, questa roba qui, l'ha strumentalizzata. Secondo me già in passato l'idea di candidare come simboli alcuni o reduci della guerra o quant'altro. No, per me, è sempre un errore. Matteo, vuoi aggiungere qualcosa? No, nulla, ci tenevo a dire questa cosa qua su Tortosa, perché che non si preoccupi, semplicemente questo. Ma ti fa schifo Tortosa per quello che ha detto, per quello che ha fatto, per quello, per come si è espresso? Non è uno dei peggiori. Non è uno dei peggiori, chi sarebbero i peggiori? Ce n'è una bella riga, sul G8 ce n'è tanti. Tanti, in che senso? A partire da tutti quelli che hanno fatto carriera. Da quelli che hanno fatto carriera, e su quello posso anche essere d'accordo, chi ha avuto responsabilità per in quella vicenda lì e ha fatto carriera, sicuramente una cosa negativa. Matteo, grazie. Un altro Matteo, Modena. Buonasera Cruciani. Vai, dimmi. Sì, io ho un po' le palle piede di sentire questi poliziotti che fanno le vittime, e mentre prima a usare il manganello sono loro con il manganello in mano. Sì. In che senso? Allora, spiegami però, amico mio, dai, su. I poliziotti sono dei pezzi di merda, sono dei fascisti che hanno la libertà di manganellare. E quando si trovano di fronte, tipo il Black Bloc, quella gente lì scappano. Allora perché sono capaci solo di manganellare la povera gente? Senti, amico mio, ma tu no, hai... povero amico mio, un delirio. Cazzo. No, amico mio, un cazzo delirio, te lo dico io. 43. Te lo dico delirio, io, dai. Caro Matteo. Cioè, che cosa delirio significa che hanno paura davanti ai Black Bloc? Di che stai parlando? Sì, perché quella gente lì scappa davanti ai Black Bloc. Quando invece c'è andato a picchiare gli studenti, sono entrati dentro di notte, capito? E questo è il coraggio che hanno le nostre Matteo, forze. Matteo, per caso hai avuto qualche problemino con le forze dell'ordine? Tu? No, assolutamente. Ma allora come fai a dire queste cose? Sei stato protagonista di qualche vicenda? Hai tirato qualche San Pietrino? Hai tirato qualche pietra in testa ai poliziotti? Hai tirato, hai tirato qualche cinghiata addosso a qualcuno? No, assolutamente. Assolutamente no. E allora come fai a sapere queste cose? Così, per sentito dire, te l'ha raccontata qualche amico no global, qualche amico no, sì, dei centri sociali o no? Ho visto le immagini. Ma che hai visto le immagini? Hai visto le immagini? Ma che servo dello Stato? Servo dello Stato anche tu, dalla radio di Confindustria, pezzo di merda. Scusi, sei un personaggio patetico. Nome, cognome, data di nascita, forza, basta. Ma che me ne frega a me, la radio di Confindustria, io servo di chi sarei servo, Matteo, non ho capito. Dei padroni. Ti servo dello Stato, anche tu, radio di Confindustria. Perché tu non sei servo dello Stato, non ho capito, non sei cittadino di questo paese, che sei tu? Eh? Che sei tu? Ma vai a cagare. Vabbè, questo è ubriaco, che ha fatto? Ha preso qualcosa, che ha fatto? Ha bevuto qualcosa. Andrea Pisa, la corsia d'ospedale. Andrea Pisa, vai. Pronto? Sì. Vai. Volevo portare la mia testimonianza di quando ho partecipato al G8 e mi sono trovato in mezzo al corteo dei Black Bloc. Sì. Da privato cittadino, perché avevano appena fatto una carica e ci siamo dispersi. Metà è andata nel corteo dei pacifici, io mi sono dovuto trovare imboccato nel corteo dei Black Bloc. Allora? È stato l'unico giorno in cui Black Bloc hanno agito isolati, perché per la maggior parte delle manifestazioni di G8 i Black Bloc agivano infiltrati negli altri cortei. Ora, quel giorno era il posto più sicuro dove stare, perché mi telefonava mia sorella disperata, perché lei era nel corteo dei pacifici e invece riceveva una carica dietro. Ma magari semplicemente, cioè, adesso, per carità, lei è della teoria per cui questi qua hanno lasciato sfogare i Black Bloc per provocare caos in città. Comunque erano liberi di fare quello che volevano. Ma semplicemente, scusa Andrea, c'è anche un'altra teoria per cui questi signori Black Bloc in realtà erano più scaltri degli altri, cioè trovavano i posti dove non c'era la polizia. Anche questo c'è, cioè, volendo picchiare, volendo distruggere, volendo sfasciare tutto, non è che si mettevano insieme agli altri. Infatti, sicuramente, ma la strategia dei Black Bloc, infatti. Vabbè, ma lei perché ci racconta questo? A 15 anni dopo, perché ci racconta questo? No. La gente che sta in macchina potrebbe pure dire: ma sti cazzi, di quello quello che ho sentito in questi giorni è che, al solito, come è stato fatto nei giorni successivi al G8, è quella di semplificare, di dire che tutti quelli che erano andati a Genova erano andati per spaccare. Ma no, ma nessuno ha detto questo, dai. Head out on the highway, looking for a Eccoci qui la zanzara. Il sottoscritto da Milano, Parenzo in collegamento da Perugia. Il collegamento da Perugia. Fra poco là con dove noi venne decisa la marcia su Roma, amico mio. Vabbè, tutti ma tuoi che amici. C'entra? Lo dico a quel, al barone nero lì, a Jonghi Lavarini, a tutta quella feccia che ogni tanto viene chiamata qui. E io dico, sono qua a, al Brufani. Un'altra notizia incredibile, quella che viene da Saluzzo, provincia di Cuneo. Sì. Questa è incredibile, eh. Fece sesso con minorenni ed è libero per buona condotta. Cioè, ha patteggiato il famoso professore di Saluzzo, ha patteggiato 2 anni di reclusione, no? Per violenza nei confronti dei minori. Ma non insegna più, però. No, ma certo che no, che c'entra. Io non so quanto abbia fatto di galera, ma è già libero per buona condotta. È già libero per buona condotta. Ha avuto uno sconto di pena di 135 giorni. Ma uno, scusa, ma che cazzo li piglia a fare 2 anni se poi gli devono fare lo sconto di pena di 135 giorni? Soprattutto per abusi sessuali nei confronti di minorenni che erano anche sue allieve. Ma ti rendi conto o no? Cioè, per questa è l'Italia. Non dovrebbe esserci sconto di pena per alcuni reati. Su, ragazzi. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, in collegamento credo sempre dal Piemonte, Gianluca Bonanno, europarlamentare, no, Lega Nord. Mia. Eccoci qui, caro Gianluca, come stai? Ciao, bene, bene. Ma ho sentito Parenzo che ha detto la feccia a una persona, no? Allora, se io dico feccia sugli zingari, mi denunciano, dicono che sono un nazista. Adesso Jonghi Lavarini lo denuncerà, il barone nero lo denuncerà. Mamma mia. Feccia. Feccia, ma chi feccia? Chi sarebbe la feccia? Spiegami. Feccia, i neofascisti, come li devi chiamare? Il fascismo cos'è? Feccia. Dai, ah, su, no. Non dai. Si può neanche più dire questo. Ma ormai. Sì, dillo tranquillamente. È corretto tra poco no, con noi Augusto dillo, Minzolini. Ma dillo tranquillamente. Tra poco con noi Augusto Minzolini, tra mezz'ora, lo dico così a un po'. No, ma chi quale è Augusto sì, Minzolini? Augusto che Minzolini, tra poco qui alla Zanzara, in diretta dalla Brufani. Tra poco. Vabbè, Gianluca, il poliziotto sospeso prenderà metà stipendio fino a quando sarà giudicato dal tribunale del Ministero degli Interni e della Polizia per il suo comportamento, per quello che ha scritto, anzi, no, soprattutto per quello che ha scritto. Che dici tu? Allora, prima cosa che si capisce come funziona questo governo, e cioè che i poliziotti vengono colpiti, non si possono neanche permettere di scrivere qualcosa su Facebook e vengono sistemati, i delinquenti li mandano fuori e gli svuota carceri. Il risultato finale è che io dico personalmente, e non solo io perché cercherò di coinvolgere la città, che l'altra metà dello stipendio del poliziotto gli verrà data dal sottoscritto e da chi starà con me, perché non è giusto che non prenda i soldi. Ah, allora aspettiamo, aspetta allora ha triplicato gli incassi, però scusami adesso, non per far battute, no, vabbè, però che c'entra? Allora, ma no, tra lo stipendio di Bonanno e quello di quell'altro, aspetta, allora Bonanno dice europarlamentare Bonanno, della Lega Nord, vabbè, eccetera, vabbè, dice una cosa molto precisa: fino a quando non ritornerà Fabio Tortosa con lo stipendio pieno, gli pago metà dello stipendio, cioè quello che manca sono 700 euro, abbiamo fatto il calcolo, 1400 netti prende adesso, da questo momento in poi prenderà 700 euro, tu ti impegni a fare cosa? A fare in modo che lui arrivi a 1400 euro tutti i mesi, perché io sto dalla parte del poliziotto, sto dalla parte della polizia, mi dispiace che Panza, cioè il capo della polizia, abbia preso una decisione del genere, ma immagino che sia stato condizionato da chi? Dal Ministero degli Interni. Sì, tu dici è tutta colpa di Alfano, dici? Beh, Alfano, ci sono i rapimenti in Italia. I rapimenti. Che tutti si chiamano chieste di dimissioni e poi lui ha detto che non sapeva niente. Di quella. Ma guarda che in questo momento è il momento degli elefanti, non dei pagliacci, Cioè hai sbagliato, dovevi venire tra mezz'ora, ora sono gli elefanti, non i pagliacci. Volta ti ho detto, ti vedo volentieri, poi però tiro l'acqua e sparisci, non capisco perché. Mamma mia, non si capisce perché. Che gli strozzi galleggiano sempre, ecco l'altro. No, però scusami, Davide, adesso sta dicendo una cosa seria. Vuole dare metà? Sta dicendo una cosa seria. Sì. Il capo della polizia, che è una persona per bene e soprattutto con la testa sulle spalle, ha deciso di prendere questo provvedimento. Non è che arriva lui del circo equestre da Bruxelles. No, i delinquenti non si colpiscono invece. Vabbè, abbiamo dici? L'Italia che è piena di delinquenti, ma vadano a fare il mestiere dove devono farlo e difende i suoi uomini. Ma anche tu fai il politico. Dovresti invece fare il nano da giardino con Biancaneve e invece sei a Bruxelles. Ma vai a giocare a basket, però con quello dei piccoli. Ma dai, cioè, anche tu capisci. Io sto parlando di cose serie. Io difendo la polizia. Stai facendo come al e solito. Anche sulla questione dell'irruzione alla Diaz. Sì. Alla Diaz. hanno fatto bene, lo ribadisco, hanno fatto bene, ma voi ve li ricordate che cosa era successo a Genova in quei giorni? Ma a fare ma cosa? Hanno fatto bene a fare cosa? Riduzione, perché poi non si sapeva bene che cosa ci fosse lì dentro. Cioè tu dici che qualche manganellata, ma qualche manganellata è giusto darla dentro la direzione. È evidente che la manganellata se l'hanno data perché ci sarà stato un motivo, non è che uno va lì e uno è inerte e gli tira le manganellate, eh. Ma hanno rischiato la vita quante volte i poliziotti a Genova? Vabbè, per cui tu anche sulla Diaz dici, anche sulla Diaz dici, hanno fatto bene a fare l'irruzione e a dare qualche calpestatina. Se l'hanno fatto ci saranno stati dei buoni motivi, ma vogliamo per una volta. Ho capito, ma le violenze fatte, quelli che sono sì, d'accordo, Gianluca, ma quelli che sono usciti col volto coperto di sangue, cioè le persone evidentemente avranno fatto qualcosa all'interno che non dovevano fare. Erano tutti santi. Il vecchio, quel signore là che è stato, come dire, pestato e ha ottenuto a Strasburgo il riconoscimento della tortura subita? Può anche darsi comunque nel lavorare come tutti sbagliamo, io per primo, possa esserci stato anche qualcuno che abbia esagerato, ma non si può colpevolizzare sempre la polizia quando abbiamo un branco di gente che ogni volta che c'è una manifestazione, i centri sociali, altra feccia della società, i notava, altra feccia della società, ma cioè, lo vogliamo dire o no? Oppure quando ci sono i centri sociali, i ma black bloc, quelli che tirano pietra, che tirano bombe carta, ma che cosa tirano c'entra tutto con la gente che è stata massacrata, cittadini cioè, privati che erano lì massacrati alla Diaz, ma che a c'entra? A Genova, tu saresti un rappresentante del popolo pure. Era uno stato di guerra, ma ti ricordi che hai spasciato tutte le vetrine, automobili bruciate? È vero, nessuno si ricorda la violenza gratuita dimostrata. Ma io libero cittadino posso stare tranquillo o no? Ma tu quale cittadino? Cioè tu dici una cosa, le persone che uscivano là coperte di sangue qualcosa avranno fatto, dici tu, se la polizia ha picchiato. Sì, perché non credo che nessuno sia matto che se uno è lì tranquillo che dorme va lì gli tiri delle stangate. Beh, no? Quello evidentemente sembra, qualcuno avrà fatto qualcosa. Sembra che sia successo questo però, che persone che erano lì fermi. Sembra che sia successo quello. No, sembra, ci sono le sentenze. Ma ci sono delle sentenze. E le sentenze che dici? Sì, le sentenze, benissimo. E le sentenze? Sì. Ci sono anche le sentenze di quello che ha ammazzato e poi ha detto che lui sembra credeva di essere Dio, adesso hanno detto credeva di essere Dio, non gli hanno fatto praticamente, non deve stare in galera, o come quello che succede tutti i giorni per la strada, tutti i giorni. L'altro giorno da noi che è successo che abbiamo beccato uno che ha fatto un incidente senza patente, senza assicurazione, sì, eccetera, era anche extracomunitario, ma questo non incide sul fatto, aveva 6 fogli di espulsione e invece stava lì tranquillamente l'abbiamo portato dentro, cosa ha fatto? È uscito subito e adesso sarà il settimo foglio di espulsione, decreto di espulsione, il risultato quello gira senza niente, fermi tutti. Che razza di Italia è questa? Lorenzo, sai cosa mi dicono in giro sempre? Ma guarda che te lo dico davvero, è la verità, mi dicono. Senti, ma quando vai lì alla Zanzara, no? Ma quel parente, ma quando lo vedi a tu per tu, non puoi sputargli in faccia? Allora, le parole pronunciate da Fabio Tortosa nei diversi telegiornali, trasmissioni, eccetera, eccetera, oltre che alla Zanzara con grande anticipo qualche giorno fa, Tortosa chiede scusa alla famiglia Giuliani. Chiedo umilmente perdono alla famiglia Giuliani per le mie parole, che non sono da uomo e non sono da me, perché purtroppo ho vissuto in famiglia lo stesso dolore e so cosa significa per una madre e un padre sopravvivere al proprio figlio. Poi dice che è un capro espiatorio. Io sono in questo momento il capro espiatorio di non so neanche cosa, ed è paradossale tutto quello che mi stia accadendo, in quanto io che non sono stato sfiorato neanche da un'accusa, oggi subisco questa gogna. Allora, cosa succede in un campo rom di... Ecco, no, però succede che Tortosa chiede scusa per quel che ha scritto e detto, mentre l'onorevole Good Ass, l'onorevole Buonanno, di che cosa dovrebbe chiedere il caso Tortosa, cioè Tortosa chiede scusa il protagonista, mentre Buonanno usa per il una caso cosa, Tortosa. Chiede... Beh, infatti, meno male che ha chiesto scusa, poi ha preso la punizione, perché in questo paese le sanzioni esistono, no? E portandolo... E Buonanno... No, cioè, adesso sono... Scusami, sono le tigri ora. Gli elefanti e i pagliacci dopo. Se e tu sei, usi il caso secca, Tortosa. Piacere Parenzo. E tu usi solo il caso Tortosa per fare politica. Ecco, allora, ancora quella stupida. Ancora, ti devi vergognare. Ti devi vergognare perché usi politicamente il caso Tortosa. In un campo di concentramento. Sei semplicemente detto con un'unica parola, adesso un che coglione. C'entra? Dai, no, ma che c'entra proprio, questo? Non c'è dai. Altra parola, è un coglione. Vabbè, è dai, un onorevole dai. Coglione. Bene, allora, ma che c'entra? Allora, Parenzo, usa politicamente il caso Parenzo Tortosa quando il protagonista ha chiesto scusa. No? Sei un coglione. Ecco qua, te l'ho detto con amore. Con amore. La checca. Coglione. Lo spelling ti faccio. Coglione. Ma perché? Io non ho capito perché adesso questi insulti a Buonanno. Spiegami. Ma perché usa? Perché no, intanto mi ha insultato per prima lui. Ma che ti ha detto l'onorevole clown? Vabbè, ma è dall'inizio che dici clown, va bene, ci sta, ridiamo. Clown, intanto hai intervenuto quando c'era il numero delle scimmie, il clown arrivano dopo. Ho ricordato al clown che Tortosa ha chiesto scusa, Buonanno invece usa il povero Tortosa per costruirci un caso politico. Ha chiesto scusa per una vicenda, per una frase che ha detto su Giuliani. Non sull'intera vicenda. Ha chiesto scusa mentre Buonanno usa il caso Tortosa per far politica, capito? Molto grave. Nel campo di concentramento non riusciva più a uscire. Allora volevo dire, intanto Parenzo attacca tanto i neofascisti che ha detto che sono la feccia, ma giustizia i neocomunisti dei centri sociali. Feccia, poi, pura feccia, vietato il fascismo in Italia, ti informo, quindi è feccia. E perde lo stipendio, no? E invece un criminale che ammazza va sta fuori, questa è l'Italia di oggi, cioè il poliziotto... si difende e gli tirano via lo stipendio. Poi, caro Parenzo, se fossi stato tu nella camionetta, ti cagavi addosso, ti saresti cagato addosso ancora oggi. Quindi non fare tanto il furbo. Mi piace perché uno il che linguaggio in mano un aulico lo dell'onorevole Buonanno. Bello questo linguaggio alto. Sì. Tu reagisci. Mm. Come lo consideri? Come lo consideri il padre di Giuliani chiede allo Stato. Aspetta, c'è il cerchio di fuoco, aspetta. Pochi minuti, l'onorevole Buonanno salterà il cerchio di fuoco. David, dai, c'è il cerchio di fuoco, ora. Un padre che perde il figlio. No, però chiede allo Stato le scuse, Guarda, le scuse secondo me non si devono dare, perché comunque mi dispiace, ripeto, per il figlio, ma uno che ha un estintore in mano, con il volto coperto, che gli vuole spaccare in testa a un carabiniere, non può avere scusanti. Noi invece siamo riusciti a dedicare una sala in Parlamento a questo ragazzo. Questo per dire il mondo al contrario di queste persone. E poi scusa, intanto è lui che si deve scusare, il padre si deve scusare per quello che suo figlio purtroppo ha fatto. Cioè si deve scusare in nome del figlio. Vabbè, ho capito, uno si può scusare in nome del figlio, perché se io avessi il figlio che cerca con un estintore di spaccarglielo in testa a un carabiniere con il volto coperto, scuseresti? Mio figlio non lo faccio uscire più di casa, fin quando la dinamica ha la maggiore età. Per fortuna, diciamo, i magistrati hanno accertato qual è la dinamica di quella cosa, quindi non è Buonanno che adesso riscrive la storia di Genova. Arriva lui e riscrive la storia di Genova. Se uno non ha niente, non prende l'estintore e cerca di spaccargli in testa a un carabiniere, no, ma vergognati Parenzo sei di quello che dici. Vergognoso, sei un comunista di merda. A differenza di Tortosa, sei fortunato perché io non ti querello, sei fortunato e anche l'immunità. A differenza di Tortosa, che ha la dignità e chiede scusa, tu sei uno Tortosa, perché fai politica sulle spalle aspetta, di Tortosa. Aspetta. Allora, a differenza degli altri che danno la solidarietà a Tortosa, che parlano tutti, io tiro fuori i soldi e lo aiuto per lo stipendio. Non so neanche chi sia, nel senso che non l'ho mai conosciuto, non ho ancora telefonato, ma lo dico adesso ufficialmente che farò così, perché la solidarietà, se uno ci crede davvero, lo fa anche aiutando. Io non ho capito che male concreta. Ci sia, perché tu pensi che sia sciacallaggio questo, Parenzo, soggettivamente? Puro sciacallaggio. Ma perché se uno politico, vuole dare 700 100 euro. Un conto è l'imprenditore, no, un momento, un conto è l'imprenditore che nel silenzio ti ha chiesto di non dire il nome e noi lo rispettiamo. No, veramente non me l'ha chiesto, l'ho detto io. Giustamente, tu forse non vuole, ma vabbè, giustamente. Ma l'ho capito, Buonanno fa politica, fa politica. Non si costruisce. Ma non sta costruendo nulla, è già in Parlamento, è già al Parlamento europeo. E che c'entra? Allora, ha chiesto scusa a questo poliziotto e sta pagando. Tu stai facendo diventare un caso politico perché lo stai strumentalizzando. Ma è già un caso politico, ma è già un caso politico. È un caso politico perché, perché dei clown come lui. Ma non faccio nessuno spettacolo, io anzi nessuno spettacolo. E guarda che l'unico poliziotto deve essere difeso, perché è una vergogna, ribadisco, guarda che un poliziotto che scrive una cosa su Facebook, difenderlo ci sono gli organi dello Stato, e un criminale invece di stare in galera va fuori. Io ti ricordo, voglio dire anche questo, ti ricordo che sono gli organi dello Stato per questo, c'è il capo della polizia. Sei obbligato? Fammi parlare un attimo. Sì. Sono obbligato ad andare in giro con il manganello. Perché? Perché io ho un pazzo nella città di Borgosesi, un pazzo perché gli hanno fatto anche il PSO, che una volta mi ha minacciato sotto un municipio con il coltello, una volta è venuto dentro il municipio e mi ha tirato una bottiglia che se mi becca mi spacca la testa davanti ai carabinieri. Ma un'altra volta col naso rosso devi andare in giro, non col manganello. Ha detto che l'unica cosa che vuole fare è mettermi il coltello nella pancia. Io devo andare in giro col manganello perché questo qui è fuori. Ma quale manganello? Hai capito? Devi metterti il naso rosso del clown, altro che il manganello. Ma non ho capito, io non ho capito. Gianluca, ma tu hai questi manganelli qui, i tuoi vigili ce li hanno? I miei vigili adesso avranno i manganelli, perché a Borgosesi si userà così. Chi fa il furbo viene manganellato, punto e finito. La pazienza è finita. Ma tutti, Cruciari, fermalo, perché veramente okay, vuole dare i manganelli, vuole dare i manganelli. Si farà così. Ma io non è che ogni non sono non le contee americane qui dove ognuno fa quello che cazzo gli pare. Oh! Invece di stare in galera possono andare in giro tranquillamente. Io non posso più vedere quindi, deputati che dovrebbero stare al fai aspetta, mi fai la pistola, userà il manganello. Punto. I manganelli quelli americani, quelli che si prendono una botta e ti spaccano la testa in due come un'arancia. Questo tu li vuoi, vuoi dotare tutti i tuoi vigili, diciamo a Borgosesia, di questi Rudolf manganelli? Giuliani, vabbè, ma non ho capito, ma se uno vuole dare sicurezza ai propri cittadini, non può? Non può, Parenzo, non ma può? Sì, sì. Non ho capito, perché io faccio conto? Il sindaco in prima persona, non è che ma mi nascondo, sindaco, però ma io tu, adesso devi devo avere la preoccupazione di andare in giro per Borgosesia con mio figlio, perché magari c'è un pazzo che mi vuole accoltellare. Io, che sono il sindaco, devo avvisare i carabinieri che stimo e ammiro perché si stanno facendo in quattro, o la polizia, per dire il sindaco arriva a Borgosesia, quindi movimentatevi tutti, perché loro mi hanno detto quello. Quindi togliete gli elefanti, ma di cosa stiamo parlando? L'Italia al contrario è. Fermi tutti, fermi, fermi. Cosa succede nei campi rom di Roma? Una signora rom che ho visto in un filmato, credo di Quinta Colonna, caccia così una giornalista. Sentite, sentite, sentite, sentite. E lei come campa? Signora, con me lei come campa? Più. Lei come basta campa? Visto che loro fanno quei secchi, lei dove va a mangiare? Basta! Vuoi che ti meno proprio allora? Vai via dal sta campo! Meglio che te ne vai via! Ma ti rendi conto che meglio che te ne vai via? Vai! Ma mi frega un cazzo, sei una donna, più un bastone spacca tutte le mie. Voi dica adesso, uscite fuori, esci fuori. Ma perché tutta sta violenza? No, esci fuori, siamo violenti, siamo zine. Dentro un campo vieni e fai la prepotente. Io? Io vado anche a fare la prepotente. Come ti chiami, scusa? Mi chiamo Sorca. Che sciccheria. Che la pigliate e che la portate via da casa mia. Devo dire che la risposta della signora Zingara, mi chiamo Sorca, è meravigliosa. Che sciccheria. Senti, senti ancora, senti, bruciamo i rifiuti, no, così vengono a pulire. Per la mia amica Nausica della Valle. Senti, però senti. Però perché uno non può andare a fare i filmati dentro un campo rom, no, ho detto, che mi dispiace, cioè non è casa certo loro, non è casa loro, è territorio, no, certo, comunale, ma non c'è comunale dubbio. Però comunale. C'è esasperazione, claro, lì c'è esasperazione. Io non ho visto tutta questa esasperazione comunque. Ma questi dell'AMA non vengono a pulire, praticamente abbiamo quel cassonetto lì che, scusi, qui addirittura c'è qualcosa che brucia, cioè, ma fa anche male bruciare i rifiuti in questo modo. Sì, è vero, ma se si ammucchiano, ammucchiano, ammucchiano, alla fine qualcuno la brucia. Perché siete voi che lo bruciate? Quindi siete voi che li bruciate? Sì. Come sì? Sì, sì, sì, perché lo bruciano per forza, perché se non lo bruciano non intervengono i pompieri, non interviene nessuno e non vengono a pulire. Beh, io voglio capire da Gianluca. Ha la sua logica, però, Sì, beh, certo, la logica rom. È tutta se una... brucia, butta tutto, brucia, non interviene. Ma tu ti sei trovato a tuo agio in mezzo ai rom, ho visto, però. Ma io non ho avuto ti problemi. Ti hanno trattato come fratello, ti hanno trattato. Tu, quasi amico come... nostro, capito? Quasi Gianluca, sai che gli hanno detto? È andato ai campi rom a Roma e gli dicevano, Parenzo, tu, amico nostro. Ecco, è tutto detto perché è un comunista, no? Però lui non vuole il manganello, ma vuole il gulag. Ma vai nei gulag, no? Voi ma state facendo un pogrom culturale sulla vicenda dei rom. Un pogrom culturale. Ma Parenzo, io vorrei facendo. Che tu andassi su quello che arrivano i clandestini, no? Sì. Ti metto tu, metto te e metti gli zingari e li ti rimandiamo il, da dove lì. Partono. Che bello, saltata sarebbe la mia grammatica. Scusami, Gianluca, ma un mondo senza Roma, come sarebbe un'Italia migliore. Senza Roma? Un mondo migliore. Molto migliore. Molto posso migliore. Assicurarti saremmo che invece un mondo senza Buonanno sarebbe un mondo senza il circo, peccato quindi che meno mi votano divertente. Parenzo, tu invece fai le trasmissioni ma te infatti le chiudono, è pieno, ma infatti è pieno tu di idioti. Le trasmissioni te le chiudono perché sei un coglione. Ma la democrazia prevede l'idiota, infatti, guarda un po'. La democrazia prevede anche che anche l'idiota vada al potere. Caso plastico di cui stiamo parlando, capito? Ma tu vorresti un'Italia libera dai rom, Gianluca? Un'Italia libera dai rom, ma farei firma. Cioè, firmeresti per un'Italia libera? Un'Italia libera? L'esercito del italiano. Sindaco. Come l'esercito, l'esercito del sindaco? Che vuol dire l'esercito del sindaco? Perché le forze dell'ordine, che io stimo tanto e le ringrazio ancora, quelle anche del mio territorio, purtroppo hanno tutta una serie di difficoltà, anche del fatto che veramente capita anche che ci sia la caserma che ti chieda e non hanno i soldi per il toner. Cioè, siamo a questi livelli qua. E allora? Io voglio fare l'esercito del sindaco perché ci sono tanti volontari. Tanti volontari. Esercito di volontari, una specie di brigata, brigata Buonanno, come lo vuoi chiamare? Tutti che vanno a fare che cosa? Dare la sicurezza, perché la gente vuole sicurezza. Ma con i manganelli, come la vuoi fare? Non gli dà quello che gli deve dare. No, i Buonanno Angels, come si può dire? Cioè, i Buonanno, quelle, l'esercito del sindaco, beh, mi piacerebbe l'esercito del sindaco. Beh, ma armatico, con i manganelli, ma se non so è se si può fare. Finirla. Non bisogna può usare fare. I manganelli. È l'ora di finirla. Adesso si devono usare i manganelli. Non bisogna usare le pistole. Io non, per primo non voglio la pistola, anche se mi hanno detto fai porto d'armi così ti dipendi. Invece non la vuoi. Io non la voglio. Uso il manganello. Usi il manganello. Vabbè, ma anche il manganello, sai, non è mica detto che qualcuno non ti possa ingabbiare se usi il manganello, cioè... Ah, certo, ma lo uso a difesa, mica vado perché lo uso perché non so che cosa fare. Ho notizie dal mondo Italia. Rom, Parenzo, notizie dal mondo Rom. Ho visto che hanno arrestato due signore che facevano prostituire le bambine, Notizie nel male che l'hanno arrestato. Tanti lì. Come? Meno le statistiche male. Delle carceri. Sapete le carceri, quelle statistiche quali sono? Le persone che arrivano dall'est, zingari per primi, rom, eccetera, sono al primo posto della popolazione carceraria in Italia. Più ancora dei marocchini e dei tunisini. Addirittura. Come mai? No, avete governato Milano per 20 anni e non ho visto un solo campo rom smantellato. Vabbè. Dovete smetterla di dire sciocchezze in giro. Ti dico quello che faccio io. Vabbè. Fate propaganda e basta. Dove sono stato il sindaco non c'è mai stato un campo rom. Ma ti sarà. Credo, ma non ci va nessuno lì, ma per forza. Certo, ma che roba perché sanno che è io non scherzo. Certo, nei campi rom dicono, no, c'ho paura da Bologna, non va. Variolo, sì, non ci va. Andate insieme. Ma dove in un campo in un campo rom. Vado con Educa. Va bene, ragazzi, vi saluto. Grande. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ma senta, Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Allora ragazzi, il sindaco di Roma Marino ha detto oggi su Milano l'abbiamo fondata noi romani e ovviamente sono seguite critiche, per esempio l'ex ministro Lupi che ha detto parla come amministra, cioè male, reazioni da parte dei milanesi, ha riaperto questa roba della guerra tra Milano e Roma che è una cosa ridicola, patetica, e soprattutto perché Marino non è romano, cioè l'abbiamo Tato. Fondata noi romani, ma Marino non è romano, ma è credo genovese, se non mi sì, se esatto, no. Esatto. È credo genovese, l'abbiamo fondata andata noi romani, ma romani quale? Cioè lui non è romano, cosa pazzesca, dai. invece, a proposito di sesso, ma i tuoi amici là non ti hanno portato altre notizie? Sì, no, no, altre notizie, certo. Anzi, prenda, gentile ascoltatore della Zanzara, venga qui, si sieda qui al mio fianco. C'è un sex toy vecchio di 250 anni scoperto non so dove. C'è una, qua un ragazzo. Una specie di fallo. Una specie allora, di fallo. Devi sapere che il festival italiano del giornalismo di Perugia, a quanto pare ci sono dei ragazzi che si occupano anche di questi argomenti sessuali. Lei si chiama, caro? Nicola. Nicola, ancora, è lo stesso di prima. È lo stesso di prima, però. Ma è maniaco, ma... Ma visto, ho detto la Zanzara, dico sì, devo parlare di sesso. Dico prego, ma perché non va anche da Barisoni, ad esempio? Lei no, quella trasmissione adatta è questa qua, benissimo. Prego. No, volevo solo puntualizzare perché Giuseppe non aveva ragione, cioè avevo ragione io perché su che cosa? Realtà queste persone spediscono un kit a casa dei, di queste persone disabili in Svezia, credo. Sì. Che contiene, lo dico qui, lo leggo, lo so, il dildo come la vagina. Dildo, il dildo, sì. Giuseppe sa cos'è sicuramente. Sì, ma anche Parenzo, tu sai cos'è il dildo? Sulla luna, cioè tu sai cos'è un dildo, ma Parenzo? Io conoscevo il dildo veramente, che era quello da bambini, no? Che il, tu non sai cos'è il dildo? Se non saprai cos'è il dildo. Cos'è il dildo. Ah, ok. No, certo. no, ma che ne so, tutto può essere, Allora, stavi dicendo Nicola, scusa. Quindi giorno. Il dildo come la vagina di plastica. Sì, scusi un attimo, questa qui posso, lei sa che radio è questa qui? Certo, della Confindustria. Sa chi è il presidente della Confindustria? Certo, non mi ricordo il nome. Il dottor, come si permette? Vada via. Chiedo scusa. Vado via, ciao. Via, è il dottor Squinzi. Squinzi, ecco, che è anche lei proprietario del una cosa. No, allora a lei sembra il caso, a lei chiedo scusa, sembra il caso dalle frequenze della Confindustria governata dal dottor Squinzi di venire qui a parlare di dildo? Le sembra questo il contesto adatto? Ma qual è la notizia? Mi fate credo capire la notizia. Scusa Nicola, tu che vorresti fare il giornalista in teoria, dimmi qual è la notizia di sta minchia di dildo, dai. Niente, praticamente la notizia è che praticamente vogliono aiutare le persone disabili perché anche loro hanno il diritto a fare sesso e a potersi masturbare. Lei dice il governo e a potersi svedese. Masturbare, ma in che modo? È un'associazione. Un'associazione, che in che modo vogliono aiutare questi disabili? Inviando a casa loro direttamente un kit, un kit, okay, che contiene, come dicevo, un dildo, vabbè, un capito, pugno come... di Adone, un pugno di Adone. Questo non conosco, pugno di Adone. Questo non credo, non, non so che cos'è, non che cos'è. Io non lo so. Cos'è il pugno di Adone? Posso sapere cos'è il pugno? Evito di spiegarlo perché mi sembra una lei cosa... lo sa veramente cos'è il pugno di Adone? L'ho letto ora, l'ho studiato la cosa prima. Vabbè, di ma spiegaci, dai, sono le 20:22, si può tranquillamente dire che cos'è il pugno. Sarebbe tipo un tipo fisting, cose del genere. Tipo? Vabbè, Madonna, okay. Il pugno di Adone, vabbè, il pugno di Adone. Spediscono vari oggetti sessuali, allora? Esatto, esatto, che completa quindi un kit. Okay, ma non è che servono solo ai disabili gli oggetti sessuali servono a tutti in teoria. No, cioè... ma questi sono stati progettati apposta per i disabili. Apposta per i disabili. Che tipo di disabilità? Adesso ci prenderanno, ci massacreranno sulla perché carrozzina, dice... insomma, questo genere di disabilità. Cioè, tu stai dicendo c'è un'associazione che progetta, fa costruire oggetti sessuali per i disabili. Anche i disabili, giustamente, hanno diritto a fare sesso. È un diritto. Io penso che Parenzo debba essere a favore di queste io cose. Sono perché... assolutamente a favore. Mi stupisco del suo giornalismo d'inchiesta e vedo come faccio i complimenti. Le grandi inchieste della Zanzara. Anche i disabili hanno bisogno di oggetti sessuali. Grazie. Ma forse anche Buonanno dovrebbe. Ma questo non lui lo so. Soprattutto, lui soprattutto. Si riaccomodi lì, grazie. Allora, andiamo a Udine, Emanuele, vai. Poi Giuseppe da Bari, Emanuele. Dimmi, dai. Pronto, buonasera, mi sento brutale. Sì, alza il volume e attaccati. Sì, dimmi. Mi sente? Sì, dimmi. Sente bene? Va, insomma, allora, forse c'è... Le dico solo una cosa, Parenzo è diventato il mio idolo dopo i vagoni di merda Buonanno. Vabbè, poi gli voglio un sacco di bene. Seconda grazie, cosa, caro. Volevo dire, sa quella di... che adesso tanto lo faccio incazzare Parenzo. Sa cosa dei signori musulmani che oggi hanno avuto la brillante idea di cacciare i cristiani dalle, sì, come dalla no, nave, certo. No? Sì, sì. Allora, guardi, siccome si fanno tante giornate, la giornata del rene, la giornata della fava, la giornata di fracasso da Velletri, tutte queste puttanate qua che non servono a Grecia qui. Perché? Sì, ma allora? Sì, siamo di quelle, sì, perché non ha ragione lui, però. La giornata mondiale per l'abolizione delle cazzo di religioni che mi hanno rotto i coglioni. Beh, Emanuele è un mito assoluto, è un mito. Idiota delle 20 e 24 no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, attenzione, fermo, fermo. Fermo, fermo, fermo, fermo, fallo. Un minuto e 40, un minuto e 40 di tempo per Emanuele da Udine. Fermo, fermo, fermo, fermo. Fai parlare Emanuele. Pensi Cruciani che esistessero, cioè non esistono le religioni. che bello, che bel mondo, ci si può fare le seghe senza pensare, ma quello può farle quando vuole, cieco, eccetera, senza il Papa che parla di teoria del gender, queste puttanate qua. Pensi che bello, senza il cazzo di Khomeini, senza il cazzo di Saddam, ce l'ha in testa proprio di questi, di quello, ecco, di quell'altro, pensi che bello. E se in caso ci fosse l'inferno, butta caso che c'è Belzebù, eccetera, sì, sì, andiamo lì all'inferno tutti assieme, noi atei che non crediamo un cazzo di niente, siamo tutti all'inferno e ci trombiamo, ci inculiamo, non ce ne frega bella un cazzo di niente, bella immagine, cosa ne pensa lei? Manuele, sei un mito, ti abbraccio Luciani, fortissimo, guardi, applausi, applausi all'inferno io e lei, sì, andiamo all'inferno io e lei. Che ci prima frega. Mi faccio sodomizzare io, no, no, però sodomizzare no, attenzione, voglio però farmi sodomizzare da lei, no, no, no, no, quello no, quello non ce la faccio. Beh, non no, ce, non ce devi la andare fino in fondo ora, lo hai applaudito, ora lo sodomizzi, eh no, troppo siamo comodo, se no amico mio, io sono eterosessuale, mi piace, ma lei mi piace è semplicemente matto, non è old style, addirittura, ma ti piace anche old style, ma ti piace anche old style, mi piace la. Ultimamente sto andando un po' sulla MILF, perché sto andando un po' su avanti con gli anni, ma non sono granny, cougar ancora. Però mi piacciono le donne un po' avanti con l'età. Però guardi, tanto. Sì, però Emanuele, non ti sodomizzo. Stai tranquillo che andiamo all'inferno insieme. Ma che cazzo gliene frega? Ma che cazzo gliene frega? Siamo all'inferno, siamo morti. Che cazzo lo va a dire in giro? Belzebù, ma cosa gliene frega? Tu dici ma tanto, no, tanto non, non sa niente nessuno poi. Vabbè, ho capito, ma perché ti devo sodomizzare, sì, per forza? Lo sa Belzebù. Ma andiamo all'inferno, andiamo all'inferno. Khomeini, Saddam, Hitler. Andiamo Mussolini, all'inferno insieme. Della storia. Andiamo all'inferno insieme. Da scopare, cioè, voglio ecco, dire, quello spero, quello, solo... quello spero. Quello allora spero. Che cazzo, insomma, cioè, Matahari era una carogna, però era una gran toppa, voglio dire. Quindi beh, so questo, lei, no? Questo aspetto di Matahari. La Rai Storia anche. Vede, no? Cruciani, vede, vede. Ciao Emanuele, ciao, ciao, ciao, ciao. Saluti. Bene, ciao, parente, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Giuseppe da Bari, Giuseppe da Bari, vai Giuseppe. Ciao, ciao, sono Pino, padre Pino da Bari, camionista. Volevo oggettivamente fare una riflessione al, al signor Parenzo, no? Volevo dire, sì, ma oggettivamente io dico padre Pino da Bari, camionista, è una settimana che non vedo mia figlia, no? Perché sto lavorando, ci siamo. Ci allora, siamo. La riflessione che faccio, lo zingaro, o non il rom, lo zingaro in genere, così come lo intendo io, lui vive con i suoi figli. Giusto? Dunque lui passeggia, si porta i bambini insieme, giusto? Ci siamo, magari il bambino, giustamente, come mia figlia mi dice, papà ma ritorni stasera, invece la figlia dello zingo, i figli dello zingo, ce l'hanno vicino il papà, la madre, no? Ci siamo? Dunque a questo siamo, punto, io mi voglio chiedere al signor Parente, cioè il fatto che lei difenda queste persone, a me va benissimo anche così, però alla fine voglio capire, cioè, ma non è così, allora, o è la nostra società? Che non cosa, funziona più, cosa? Non funziona perché io se lavoro tutto il suo discorso, ma che vuol dire che non funziona la società? Che vuol dire non funziona? Giuseppe, cioè, cosa, caro Pino, cosa vuoi dire? Dimmi cosa vuoi voglio dire. Voglio dire, cioè, a prescindere che io non ce l'ho con nessuno, a prescindere che io non ce l'ho con nessuno, cioè, a prescindere né con gli zingari né con nessuno, però il fatto che loro vivono in quel modo, anche in quel modo là, cioè c'hanno i bambini insieme, se li portano a passeggio, se li portano insieme, e il bambino non capisce che quello che sta facendo magari un male, capisce che c'è il papà, la madre vicino, e allora, no? E allora lei vuole dire, allora un cazzo, e allora a questo punto non va bene il discorso di Parenzo che li difende, a questo punto anch'io voglio diventare uno zingaro perché? Per stare insieme a mia figlia, perché vuoi diventare uno zingaro? E per stare insieme a mia figlia, porco giù, te l'ho appena detto. Io una settimana che non la vedo. Perché non la vedi una settimana? Perché sto lavorando, ho bisogno di lavorare, sono un imprenditore, stiamo alle pezze, tutti quanti. Allora... Non voglio fare altri discorsi. E allora te l'ho già detto. Allora, che cosa succede? Qua c'è qualcosa che non quadra. No, ma quadra. Scusa, Pino, che ci sia qualcosa che non quadra, sicuro. Forse anche nel tuo cervello, però, se non ci fai capire bene, Giuseppe, detto Pino. Pino da Bari, che innanzitutto mi sembra di capire che tu fai il camionista, giusto? Sì, sono padre Pino da Bari, ma non è sottinteso. Come padre Pino? Che era un altro padre Pino. Papà, vabbè. Come papà. Ah, padre Pino. Padre Pino. Ragazzi, sono dei personaggi incredibili. Padre Pino. Beh, dire. Ho capito, fermo un attimo. Padre Pino, fermo. Allora, padre Pino da Bari dice in sostanza: io non vedo mio figlio da una settimana. Ora, che straminchia c'entrano i rom col fatto che tu per una settimana non vedi i tuoi figli? Spiegami, perché tu lavori e quelli non fanno un cazzo? Spiegami. No, no, perché cioè, oggettivo, io quello che non riesco a vorrei fare una riflessione. Una cioè, riflessione, padre Pino, io sì. O c'è qualcosa che non va, perché io non devo dire. E questi zingari che io li vedo, io ho visto l'altro giorno uno zingaro con due bambini che se ne portava a passeggio e poi faceva la carità, dicevo tra me e me, oh, quella è vita, cioè capisci? Ah, quello che dico io allora, quello che dico io. Bravo! Cioè, no, ma mi hai detto di no, mi hai detto di no, cioè tu no, dici. No, non ti ho detto di no, è quello che volevo dire dall'inizio. Ti ringrazio che mi hai capito e ti ringrazio che mi stai dando anche modo di parlare e di esprimere. Vabbè, fermola. Cruciani e Parenzo, mi raccomando, tranquilli. Allora, caro Parenzo, nei racconti che ci ha fatto due giorni fa l'agente Tortosa, Fabio Tortosa, e nei racconti poi successivi, quelli che ha fatto ad altre televisioni, giornali, eccetera, eccetera, anche a Repubblica Oggi, c'è scolpita una cosa. Lui dice, gli agenti del settimo reparto della Digos, della Mobile, anzi, che entrarono nella scuola Diaz, secondo ovviamente quello che ci racconta, non hanno commesso violenze. Cioè, hanno sicuramente fatto un intervento, secondo lui, per reprimere quello che c'era dentro, cioè, però non hanno, esatto, non hanno commesso violenza. Nella stessa pagina il capo della polizia, il signor Pansa, che non è Giampaolo Pansa ma il capo della polizia Pansa, dice non ci sarà mai più un'altra Diaz. Lo dice il capo della polizia. Aspetta. Cioè, no, un momento che importante. No, ma questo lo so. Però in realtà la versione di Tortosa, secondo la quale gli agenti del settimo reparto non hanno commesso violenze e le violenze sarebbero state commesse, cioè le violenze non giustificate naturalmente, sarebbero state commesse in realtà da altri agenti non identificati, quelli in borghese o coi fratini, insomma persone che non erano in divisa come quelli del settimo, viene smentita da una persona che era lì dentro, è un giornalista, è autore di un libro che è Noi della Diaz, La notte dei manganelli al G8 di Genova, pubblicato tantissimi anni fa nel 2008. Lui si chiama Lorenzo Guadagnucci, stava là dentro per caso perché era il suo giorno libero, dormiva dentro quella caserma, e lui invece dice un'altra cosa. Guadagnucci, buonasera. Buonasera. Eccoci qui, ciao. Allora, ciao. Tu che cosa dici in sostanza? Eri là dentro, l'ho già riassunto io, era il tuo giorno libero dal tuo lavoro, sei andato lì per assistere perché ti eri appassionato di questi movimenti contro, sì, no, per un nuovo ordine economico, eccetera, eccetera. Hai deciso di dormire dentro la Diaz. Tortosa dice che il settimo non commise violenze, e invece? Invece il settimo è il reparto che è entrato per primo all'interno della scuola, sì, e che ha iniziato immediatamente con le violenze sulle persone che si sono trovate di fronte. Quello che dice Tortosa, la verità che dice, è che anche altri hanno, sì, commesso violenze, perché anche altri reparti effettivamente sono entrati successivamente. Sì. Ma io stesso ho subito. Tu hai subito violenza da chi esattamente? Io ho subito violenze in due riprese molto ravvicinate ma distinte, sì, e inizialmente da due agenti del reparto entrato per primo. Quindi, cioè il settimo? Cioè il settimo. Sì. Ma che ti hanno fatto? Cioè com'eri? Hai opposto? Perché lui dice opponevano resistenza, tiravano una roba, eccetera. Tu dov'eri invece? No, questo ovviamente il processo ha accertato che non ci fu, sì, resistenza. No, ma sì. Io ero in un angolo della palestra dove entrarono, sì, inizialmente al pian terreno. Sì. Sono stato aggredito da questi due agenti, ero seduto, mi sono riparato dei colpi che hanno, sì, dato con i manganelli. Sì. Poco dopo, sì, un terzo agente, questo non era più con la divisa del settimo, aveva appunto il fratino, una camicia bianca. Io nel libro l'ho descritto, sì, questo personaggio. Torturatore bianco, in bianco. Io l'ho chiamato camicia bianca. La camicia bianca, sì. Camicia bianca, che era appunto... Sì. Ho avuto la possibilità poi di seguirlo anche nelle due ore che siamo rimasti lì dentro, perché appunto è rimasto poi per tutto il tempo. Questo terzo agente effettivamente non era del reparto mobile, ce ne sono stati altri. Sì. Senti, Guadagnucci, ci voglio chiederti una cosa. Perché è fondamentale avere l'identificazione dei poliziotti, cioè vabbè, come questo fosse è un altro discorso. Però voglio chiedere a Lorenzo. Voglio chiedere a Lorenzo una cosa, ma tu che conseguenze hai subito da quella vicenda, al di là della questione psicologica, eccetera, eccetera, dal punto di vista fisico, diciamo, quel pestaggio vero e proprio che hai subito da parte, sì, dei due agenti prima e poi da parte di questo signore in bianco, cosa ti ha provocato dal punto di vista fisico? Sì, io ho avuto una frattura dello scafoide alla mano. Sì. Poi ho avuto, per i colpi che hanno dato con il tonfa, sostanzialmente una sorta di scarnificazione delle braccia, c'era l'osso esposto, tant'è che all'inizio il medico che entrò inizialmente nella Diaz disse, e all'epoca uscì questa notizia, che mi ero rotto entrambe le braccia, in realtà la frattura era solo la mano, sì. Le braccia avevano queste lacerazioni molto profonde, sì. Più colpi alla schiena, sì. All'addome, sì. Più la traccia che nella ricostruzione mia dei fatti attribuisco al terzo agente, sì. Quello con la camicia bianca, sì. Ho avuto anche il segno di una scossa elettrica, probabilmente praticata con un manganello elettrico, che come si sa è proibito. Non è in dotazione alla polizia, sì. Italiana. Anche io volevo chiederti una cosa, ma secondo te Tortosa è sincero oppure queste cose qui, diciamo le cosiddette violenze commesse dal settimo, le nega così per spirito di corpo, perché la polizia fa sempre così, eccetera? Cioè, l'hai sentito probabilmente in questi giorni, televisioni, giornali, forse anche da noi alla radio, è sincero oppure no, secondo te? Oppure... Io, diciamo, il punto fin dove posso arrivare è pensare che Tortosa non abbia esercitato violenza, perché sono entrati in 80, sì. E non credo che tutti singolarmente abbiano necessariamente manganellato, anzi, sì. Tendo ad escludere, cioè lui probabilmente no, tra l'altro, escludo, sì. Che possa non avere visto, questo lo escludo, cioè sicuramente, a meno che non sia rimasto fuori dalla però scuola, lui potrebbe considerare queste azioni come una normale azione di, tra virgolette, repressione, accidenti. Lei lo sa che non è che si guarda troppo per il sottile, se qualcuno gli ha, no, come, no, siccome hanno comandato al reparto di entrare lì per scoprire dei black block che c'erano, che in realtà non c'erano, tutto permesso, eh? No, vabbè, quando si fa un'azione di questo lo tipo ha detto, ma... lui stesso l'altra volta, proprio alla nostra intervista l'altro giorno, ha detto voglio che si faccia un nuovo manuale su come dobbiamo intervenire, l'ha detto lui, che c'è bisogno di direttive più specifiche. Guadagnucci? Diciamo che non c'è persona al mondo che possa ritenere un'operazione corretta di polizia prendere a calci e manganellate persone sedute con le mani alzate. Diciamo. Tu dormivi? Io dormivo, mi sono svegliato quando ho sentito rumori, sì. Dall'esterno, ovviamente. Ma hai subito più violenze da quelli del settimo o da quello in camice bianco? Da quelli del settimo, certamente. Non c'è da quelli del settimo. Dunque, quelli del settimo non sono degli angeli, come Tortosa ha voluto dire in questi giorni. No, come? Cioè, non ha parlato di angeli in realtà, cioè, ma come lo consideri un fascista lui, una persona? Non lo considero in nessun modo, non lo conosco, non mi permette di considerare. Ma per quello che ha detto e per quello che ha scritto, immagino che credo che abbia scritto delle cose sbagliate, però bisogna anche dire un'altra cosa, cioè che come dire, Tortosa non è che ha detto cose molto diverse da quelle che sono uscite negli anni scorsi da altri personaggi di quel reparto, ma anche in qualche modo, non con le stesse parole magari, ma con lo stesso spirito, sì. Appartenenti anche a altri corpi, addirittura vertici di polizia. Addirittura il pubblico ministero Rico Zucca, in un'intervista uscita oggi, ha detto che la polizia pensa le stesse cose, sì. Esattamente. Che il corpo, e tu pensi la stessa cosa, cioè la polizia italiana in sostanza condivide quello che ha scritto, cioè i vertici della polizia italiana condividono quello che ha detto, ha scritto, e ipocritamente non credo invece lo puniscono. Non si possa generalizzare così, e non è una questione di cosa pensano, diciamo dei comportamenti che sono stati tenuti in questi anni, che sono andati nella direzione. Sono stati corporativi, scritto, sono stati solo corporativi. Hanno coperto le torture. Questa è la cosa grave che segnala la Corte Europea. Non tanto la tortura, non solo, diciamo così, avvenuta dentro la scuola, ma la copertura che è avvenuta dopo, che è sicuramente più grave, che non è certo. Ma va cacciato dalla polizia? Va cacciato dalla polizia oppure è un capro espiatorio, oppure è un pesce troppo piccolo, secondo te, Tortosa? Guarda, io. No, è il tuo parere, non saprei, che ne so. Non saprei. Direi che la mia sensazione è questa, che c'è un elemento, come dire, quasi ironico, cioè? Mi permetto di dire, in questa vicenda, perché c'è stata questa, come dire, celerità, no? Sì, è vero. Su questo personaggio. Un po' sospetta. Anche perché, come ci dice la Corte Europea, se questa condanna è arrivata è perché non sono state rispettate le prescrizioni della Corte stessa, che prevedono, a proposito di sospensioni, la sospensione per i funzionari di pubblica sicurezza rinviati a giudizio. Allora, per cui tu dici molta gente non è stata sospesa quando è stata rinviata a giudizio, questo lo dice lo stesso Tortosa. Tra l'altro. Nel 2004 bisognava fare la sospensione. E invece adesso lui viene sospeso per alcune cose scritte. Esatto. Vabbè, grazie Guadagnucci. Grazie. Ciao. I funzionari del comune, i nostri amici funzionari dei comuni d'Italia, che si stanno battendo per una causa meravigliosa, per una causa giusta, per una causa fantastica, per una causa: eliminare i cognomi che ci fanno schifo, eliminare quei cognomi che ci fanno ribrezzo. uno di questi. Stiamo continuando su questo qua, eh. Stiamo continuando con Maiale. Maiale, Maiale. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune, sto cercando Pasquale Maiale. Sì, dica. Allora, il comune ha stanziato, signora, 1.000 euro per chi volesse cambiare cognome. Il vostro cognome è giudicato imbarazzante. Senta, se vuole sfottere, chiami da un'altra parte. Io non... No, signora, io sto lavorando. Lei sta chiamando? Da dove? Io gliel'ho già detto, signora, quindi se lei che vuole... Quindi non ti faccio il problema che non c'è, ok? Arrivederci. Pronto? Il cognome Maiale reca del danno all'immagine del nostro comune, bisognerebbe cambiarlo. No, perché devo cambiarlo? Le dicevo perché genera dell'imbarazzo, del discredito. A me non è mai fatto questa cosa. Lavorando in una pubblica amministrazione, ma lo sa quanti cognomi strani mi incrociavo io? Per esempio? No, delle battute. E allora che si chiama Troia che fa? Dottore Porco? Che dica alla giunta, al sindaco, tutto che si occupa delle priorità della città, della fame che circola, che si occupi di queste cose, che si occupa della città che è tutta stassata. Pronto? Sì, Maiale Rosa? Sì. Buongiorno, chiamo dal comune. Il comune ha stanziato 1.000 euro per chi volesse cambiare cognome. Ci sono certi cognomi che sono giudicati dall'amministrazione, diciamo, sconvenienti. Sì, lo so. L'imbarazzo l'ho avuto da sempre. Sì, però ci penserò. Pronto? Sì, buongiorno, chiamo dal comune, sto cercando Lorenzo Maiale. Non c'è, guardi, mi dica, sono la moglie. Volevo chiederle appunto se siete disposti a cambiare cognome. No, signora, io sto lavorando con la massima serietà, ci mancherebbe. Scusi, no, mi divertentissimo. Ma non ha mai avuto problemi di scherno? No, di... mi fa solo ridere, guardi, il problema è di chi ascolta. Queste sono problematiche assolutamente stupide, secondo il mio punto di vista. Devo dire, no. Puoi immaginare, non è l'unico maiale. Dica, dica. No, dico, non è l'unico maiale all'interno del comune, comunque... signora, se vogliamo mantenere un attimo di serietà, sennò io... Perché c'è anche un'altra novità, e precisamente il comune stanzia 1.000 euro per chi dovesse e volesse cambiare appunto cognome. Beh, è un po' pochino 1.000 euro, che ci facciamo? Lei dice che è poco, per noi sembra tantissimo, cioè ci stiamo svenando. Il maiale è tutto in palio. Io non riesco a capire, ma uno il comune ti offre 1.000 euro. Ma no, ti ma chiami Maiale, ti chiami Maiale e prendi sti soldi, no? Ti chiami Maiale. Cioè non è che ti è chiami Rossi, Rossi, Bianchi, Cruciani, Parenzo. Parenzo si potrebbe. Cioè, dai, su. Ah, getta discredito. Buon anno! Amerigo, buon provincia anno. Di Chieti, quello dai. Amerigo, dai. Amerigo Vespucci, dai. Amerigo. Che poi se ne andava a mangiare. Amerigo. Ah, ma che sta facendo Amerigo? Sta a mangiare? Che sta facendo? No, io i giornali. Amerigo, dimmi. Sto lavorando, non sto mangiando. Ascolta, ti volevo dire una cosa. Mi sono rotto intanto il cazzo di questo stato di merda. Cioè, in che senso, scusa? Allora, un poliziotto che sì. Dice le sue opinioni. Sì, no, dai, ti aiuto viene io. Sospeso, viene sospeso, danneggiato economicamente. Sì. È entrato anche Priolo, parla sempre su faccia di cazzo, vabbè. Mi saluti a casa, eh? Ho detto solo che è entrato Priolo. Viene danneggiato, viene sì, ho capito. Casa, tutto ti chiamo domani, Amerigo, ti chiamo domani, stai tranquillo. No, lo chiamo domani, lo chiamo domani. Beva di meno, beva di meno. A domani, saluti a Sorreta. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.